Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo subito con un po' di musica, una canzone che guarda il passato, ma con un messaggio molto presente. 18 marzo, sabato, le scuole tappezzate di tutti i tricolori delle cinque giornate. Tornato da pescare, a cena che m'affretto, da Radio Popolare, due morti al casoretto. Vado dei fascisti vicino al Leoncavallo, sono morti due compagni caduti in un tranello, e butto giù un bicchiere e corro al motorino, e gli occhi per vedere quel sangue come il vino. Ricordo c'era gente e coi ragazzi vecchi, in quell'aria pesante parlavano con gli occhi. Di fianco alla rimessa, lo sguardo fisso a terra, la rabbia sta compressa in questa sporca guerra. E lunedì in fabbrica al sindacato ho detto, perché soltanto un'ora di sciopero ha indetto. È quello che balbetta e io grido come un pazzo, per Moro fai un casino, per due compagni un cazzo. Non sto con le BR, ma neppure con lo Stato, ho spento la catena, poi me ne sono andato. Piazzale Loreto, su fino all'Ambrate, non era un funerale, erano barricate. Quella folla immensa, nel buio del ricordo, la rabbia si confonde in quel dolore sordo. E oggi Leoncavallo, di nuovo sgomberato, son sempre quei fascisti, è sempre quello Stato. Di vedere i partigiani armati saliti su in montagna e che non son tornati, le loro scarpe rotte sapevano che fare insieme a sti ragazzi, eppur bisogna andare. La banda popolare dell'Emilia Rossa insieme ad Alessio Lega e Carlo De Martini, una canzone dedicata a Fausto e Iaio, uscita praticamente un mese fa in occasione del 50° anniversario della morte di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Era il 18 marzo del 1978, uccisi due ragazzi frequentatori del Leoncavallo di Milano, a cui abbiamo dedicato tra l'altro la prima puntata di questa stagione di Zibaldone, che stavano portando portando avanti delle indagini sul traffico di eroina e cocaina nel quartiere, un caso poi archiviato addirittura senza un colpevole ormai nel 2000, quindi praticamente 25 anni fa. Prima di parlare di questo brano e della puntata di quest'oggi, do subito il benvenuto, anzi bentornato, e auguro buon pomeriggio al nostro ergonomico Banzo. Ciao Banzo. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, eccoci qua. In realtà non sono passati esattamente 50 anni, comunque era un anniversario. Hai ragione, ho fatto male i conti io, 48, ne mancano ancora due, siamo hai ragione. Nel 2026, ecco, non invecchiarsi più del necessario, che qua il tempo sta già facendo il suo corso implacabile. Saranno 50 tra due anni, dai, mettiamola così. Esattamente, esattamente. E un altro dettaglio che è importantissimo da dire, sto un po' ironizzando, non si vede sicuramente alla radio, è che banda popolare, pop, è scritto in maiuscole. Questa è una cosa che volevo assolutamente dire, così insomma potete figurarvi il nome del gruppo in modo diverso da come lo avreste pensato solo ascoltandolo, perché viene appunto scritto in questo modo curioso. Sì, poi aggiungo, visto che sono in vena di precisazioni, che il quartiere sul quale stavano indagando Fausto e Iaio era il Casoretto, che era appunto il quartiere di Milano dove vivevano, e potremmo anche dire Alessio Lega è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, mentre Carlo De Martini purtroppo sì, nel senso che è un nome che forse dice meno a un primo impatto e dovrebbe dire molto, perché attualmente è un direttore d'orchestra, però ai tempi dell'omicidio di Fausto Iaio era membro degli Stormy Six, quindi un personaggio importantissimo. Non c'è bisogno di ricordare l'importanza che hanno avuto gli Stormy Six per la musica italiana. E sì, è incredibile anche pensare che siano passati già 26 anni dall'archiviazione, però è un paese, l'Italia, dove insomma i misteri restano spesso senza soluzione. Infatti usiamo comunemente la locuzione misteri italiani, che ha un significato ben preciso, non è così semplicemente due parole accostate, diciamo. E sì, lo dice anche la canzone, appunto l'omicidio di Fausto Iaio avviene praticamente a ridosso del rapimento di Aldo Moro, qui, che era avvenuto due giorni prima, quindi l'Italia era decisamente in subbuglio, e possiamo immaginare che sul momento l'omicidio di Fausto Iaio non abbia suscitato, diciamo, grande sgomento, perché tutto il paese era impegnato con quella questione, ecco. Aggiungere solo due elementi rapidissimi, poi passiamo alla tematica della puntata di quest'oggi. La banda popolare dell'Emilia Rossa è un collettivo combat folk di musicisti operai modenesi, e questo io credo che sia molto importante da ricordare. Alla voce avete sentito, oltre ad Alessio Lega, anche appunto Paolo Brini. E l'altro elemento è, l'avete ascoltato al finale, come sovrappone, no? La storia di Fausto Iaio con l'esperienza resistenziale, non solo nel testo ma anche nella musica, con una citazione del canto Pietà le morta di Nuto Revelli, canzone mitica, no? Nel 1944. Banzo, andiamo a bomba, perché sennò qua ci giochiamo già subito il tempo di questa puntata. Noi quest'oggi di che cosa parliamo? Dillo tu. Esatto, questa non è una precisazione perché non l'abbiamo ancora detto. Passo a annunciare il titolo della puntata, che è Fanigliulo, questo sconosciuto. E se non vi suona il nome, appunto, questo fatto potrebbe dimostrare che il titolo che abbiamo scelto è corretto, perché parleremo di Franco Fanigliulo, all'anagrafe Gianfranco, scoperto da Wikipedia, ma non credo si possa considerare uno pseudonimo, che fra le vaste schiere dei cantautori italiani è appunto uno dei più oscuri, uno di quelli che, diciamo, ha ottenuto meno attenzione, benché avesse anche amicizie importanti. Insomma, la qualità artistica non si valuta sul peso delle amicizie, però comunque era amico di Vasco Rossi e Zucchero, per dirne due, fra gli anni 70 e 80. Ebbe una carriera di una dozzina d'anni, diciamo, fra il 77 e l'89, uscirono 5 album su 3 etichette. Forse qualcuno ricorda il suo primo singolo, A me mi piace vivere alla grande, del, sì, appunto, 77, credo. Ma siamo qui non per parlare, per ascoltare le canzoni di Fanigliulo, ma bensì delle reinterpretazioni di Fanigliulo, perché ha, diciamo, togliere dall'oblio, da questa immeritata polvere la figura di Fanigliulo, ci pensa un vecchissimo amico di Zibaldone, l'incrollabile Holden, al secolo Davide Sellery, che a Fanigliulo ha dedicato addirittura un album intero che si intitola Fanigliulo, l'artista. E questa è già una dichiarazione di intenti molto chiara. Eh sì, che esce proprio quest'oggi. Piccola correzione, era del 79, a me mi piace arrivare alla grande, secondo album di Fanigliulo, ma adesso ne parleremo con Holden. Ci andiamo ad ascoltare Buffone, il singolo che lancia proprio questo disco, che esce quest'oggi. Buffone ovviamente è una delle canzoni di Fanigliulo, ma adesso vi spieghiamo, e anzi Holden ci spiega molto di più. Godetevi questo brano. Le mani mi si muovono sulla testa, poi si infilano nella tasca, fanno giri nell'aria a indicare chissà che. La bocca con più smorfie che sorrisi, gli occhi aperti, storti e chiusi, a inventare espressioni per dirvi chi sono io. Buffone che salta e sorride, che piange, che finge, che pure ci crede. Buffone che solo cantando riesce a trovare sé. Buffone di stracci e di peli, di vita normale, di campi e di mare. Giullare un po' buffo e un po' triste, che copia soltanto sé. È vero, domandatelo agli ulivi, alle vigne e al mio mare, se per caso un momento ho cessato di essere me. Io parlo agli uccelli e canto al vento, come faccio in questo momento, con le luci nel viso e davanti un po' di voi. Buffone, una strana condanna, un viso un po' assurdo e l'anima in mano, giullare ironico, cupo e forse un po' demode. Io canto, ballo, recito me stesso, prendo a calci il mio passato, non importa se ascoltarmi c'è una folla o solo te. Io canto, ballo e recito voi stessi, sono quello che vi conosce, caricatura di voi non distante dalla verità. Buffoni, voi siete buffoni, di vita e costumi, di vizi e ricordi, giullari di strade, di casa, di storie, di fantasie. Buffoni, noi siamo buffoni, un po' tristi, un po' goffi, un po' cinici, astuti. Buffoni, noi siamo il teatro che sempre replicherà. Questa era Buffone, la voce è quella di Holden, la canzone è del grande compianto Franco Fanigliulo. Esce oggi questa canzone, che è anche il singolo di un nuovo disco di Holden, Fanigliulo l'artista, che riporta appunto al centro della scena uno degli autori forse più interessanti e sottovalutati della canzone d'autore italiana tra anni 70 e anni 80, scomparso giovanissimo a soli 44 anni nel 1989. Oggi abbiamo qui con noi Holden per parlarci di questo disco e di questo progetto Holden, Davide, bentornato innanzitutto a Zibaldone. Un progetto inaspettato, diciamo, non è qualcosa che tu stavi annunciando da tempo e che io credo sia davvero molto molto azzeccato anche per questi anni della storia italiana e della musica italiana. Ciao Steven, ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Sì, sono contento che finalmente venga alla luce questo disco che avevo nel cassetto da un po' di tempo. Non me l'avevi mai detto però, Non l'avevo mai detto, no, perché era un cassetto ben chiuso perché altrimenti l'effetto sorpresa poi se ne va. Ascolta, ma raccontaci un po', come mai sei andato a ripescare Fanigliulo? Ecco, una cosa importante da dire è che questo è il primo disco omaggio, il primo tributo, insomma, chiamiamolo come vogliamo, discografico, mai realizzato dell'opera di Fanigliulo. Sì, sì, infatti mi sono abbastanza sorpreso di questo, è stata una delle leve che mi ha spinto a farlo, perché credo che un artista, un cantatore come Fanigliulo meriti un'attenzione importante, e mi ha abbastanza stupito il fatto che, andandolo a cercare, perché ovviamente prima di fare un progetto del genere ci si informa sul se ci siano già canzoni, insomma, operazioni simili, no? Certo. Cercando di fare qualcosa di nuovo ed originale, e a parte le varie cover del suo pezzo più famoso, che a me mi piace vivere alla grande, che tra l'altro io cantai con la Sinfonica di Sanremo un paio di anni fa, prima del premio Tenco, e quindi quello fu anche un modo per riavvicinarmi a lui, no? Che già conoscevo, interpretando il suo pezzo più famoso che porta a Sanremo. E comunque sì, è il primo disco interamente dedicato a lui, forse perché è un po' una follia decidere di interpretare Fanigliulo, perché comunque non è facile, non è stato facile anche per me. Poi credo di aver trovato una chiave giusta, ecco, per dargli giustizia e per essere anche me stesso, insomma. E ricordo che il disco è prodotto da Flavio Ferri, che aveva già prodotto anche i tuoi ultimi lavori discografici, e tra l'altro ci suona anche in questo album tastiere, basso e chitarre, e che esce per l'etichetta Beta Produzioni. Insomma, primo tributo a Fanigliulo, un disco dove tu sei interprete, non è il primo, ne avevi già fatti in passato, oltre ovviamente a dischi con pezzi tuoi inediti. Ritorniamo un attimino a Fanigliulo, no? Ci raccontavi che, insomma, ti eri riavvicinato per interpretare il suo brano forse più conosciuto, A me mi piace vivere alla grande, che aveva portato a Sanremo nel 79, e che tu appunto hai cantato a Sanremo, però in un'altra cornice, quella del Tenco. Ecco, ma poi da lì come ti sei approcciato appunto alla produzione di cantautorale di Fanigliulo? Fanigliulo ha 5 dischi, no? Prodotti tra il 77 e l'89, l'ultimo esce postumo, tra l'altro grazie all'aiuto anche di suoi grandi amici durante gli anni 80 con cui aveva collaborato, Zucchero e Vasco Rossi. Ecco, come ti sei un po' destreggiato poi anche in una produzione che comunque è relativamente ampia, per poi raccogliere solo alcuni brani in un tributo, un disco solo? Sì, non è facile, è sempre bene non fare dischi troppo lunghi. Io sono molto affezionato al numero 9 nei dischi, quindi ho deciso che sarebbero state 9 canzoni, come quasi tutti i miei ultimi dischi, è una sorta forse superstizione, non lo so, ma diciamo che mi sono basato inizialmente su, in maniera istintiva, alle sensazioni che mi davano le canzoni a livello proprio anche musicale e di arrangiamento. Io, essendo un maledetto nostalgico, sono più affezionato comunque alle sonorità anni 70, e sono andato a pescare i pezzi forse anche più seminali, quelli più rappresentativi, che raccontavano il Fanigliulo iniziale, che è, infatti i brani sono presi tutti tra il primo e il secondo disco, me ne sono accorto poi alla fine, avendoli ascoltati tutti, partendo appunto prima di tutto da un fatto stilistico di arrangiamento di suono, e poi molto colpito da alcuni pezzi che secondo me sono dei capolavori nascosti, tipo Marco e Giuditta, o tipo Con te, o Il chirurgo, o altri, che ogni volta che lo riascoltavo dicevo: ma com'è possibile che nessuno ha ritirato fuori perle del genere? Perché raggiungono, secondo me, delle vette poetiche e di originalità che meritano un'attenzione sicuramente importante, insomma. E poi mi sono sentito anche identificato in certi passaggi, l'ho sentito molto vicino a me, che è quello che succede quando ci si innamora, insomma, di un artista, no? Il disco, no, molti dei brani che tu citavi, ma anche Buffone, che ci siamo ascoltati prima, è del suo disco del 79, l'anno appunto in cui usciva anche A me mi piace vivere alla grande, che aveva portato quello stesso anno a Sanremo. E invece il primo disco era uscito 2 anni prima, era il 1977, parliamo di Mi ero scordato di me. C'è sempre, no, questa ironia nei testi di Fanigliulo, che poi si accompagnava, attenzione, e penso che anche qui sia stata una questione, no, difficile da affrontare, con una verve teatrale, a volte quasi un sarcasmo che giocava quasi con il teatro canzone, in fin dei conti. Sì, questo è stato il punto più difficile, ma anche più affascinante, perché insieme a Flavio inizialmente ci siamo guardati e quando ho detto a Flavio voglio fare questo disco, lui mi ha detto ma sei sicuro di volerlo fare? Io ho detto sì, ma tu sai interpretarlo, Fanigliolo, ma tu questo era un pazzo teatrante, pazzo nel senso buono ovviamente, tu hai questo dentro di te? Io ho detto non lo so, proviamo. Abbiamo provato e il risultato, cioè l'intenzione di caricare e di interpretare in maniera teatrale non funzionava. Anche perché sembrava un'imitazione un po' grottesca, no? Sì. E allora quello che abbiamo capito è che invece di aggiungere o di imitare bisognava sottrarre, cioè bisognava togliere. Quindi abbiamo tolto tutto quello che era possibile togliere e ho cercato di cantare in maniera vicino al microfono, in maniera intima, in maniera personale, per togliere tutta quella sovrastruttura teatrale che Fanigliolo amava molto, ma che io credo che lui utilizzasse proprio per prendere in giro se stesso e gli altri in un certo senso, come se fare il cantante o il cantatore non fosse una cosa troppo seria, come se avesse una sorta di pudore, no? Della sua intelligenza e del suo talento. E allora ho pensato, magari togliendo tutto questo, finalmente, o magari questa è la mia intenzione, mi potrà vedere con più chiarezza qual è davvero il nucleo artistico, la potenza e il talento di questo artista, perché forse si era nascosto un po' dietro a questa. Questa è la mia interpretazione, che può essere ovviamente smentita, no? Ma si nascondeva dietro questa maschera. Io ho cercato di togliergli la maschera, diciamo, sperando di fargli un favore. Certo, e di ridare centralità appunto ai testi, alle canzoni, no? A quello che lui aveva scritto come cantautore. Esatto. Andiamo ad ascoltarci appunto il brano che dà anche il titolo al suo primo disco, Mi ero scordato di me, 1977, che ovviamente è canzone che è presente in questo tuo tributo, Fanigliolo l'artista, di Holden. Poi ritorniamo qui con te e continuiamo un po' a chiacchierare. Passavo di lì per caso e t'ho incontrato. Se almeno l'avessi saputo, ti trovo molto cambiato. Mi ero scordato di te, mi ero scordato di me. Un ingenuo sorriso, un ricordo improvviso, un reciproco avviso. Il passo più lento, mi hai teso la mano, ti ho teso la mano. Mi ero scordato di te, mi ero scordato di me. Ma sai com'è questo mondo, sai com'è. Ti guardavo, che ti sorridevo, non credevo proprio di trovarmi qui davanti a me. E tu invece di parlare mi hai squadrato, non sapevi cosa dire, volevi sapere, ma sorridevi come me. E i ricordi, ti ricordi, va bene si sa, per favore almeno un sì. E i ricordi, ti ricordi, va bene si sa, per favore almeno un sì. Passavo di lì per caso e ti ho incontrato. Se almeno l'avessi saputo, ti trovo molto, molto cambiato. Mi ero scordato di te, mi ero scordato di me. Ma sai com'è, questo mondo sai com'è. A te che ti guardavo, che ti sorridevo, non credevo proprio di trovarmi qui davanti a me. E tu invece di parlare mi hai squadrato, non sapevi cosa dire, volevi sapere, ma sorridevi come me. E ricordi? Ti ricordi? Va bene, si sa, per favore almeno un sì. Va bene, si sa, per favore almeno sì. Sai, Holden, quando prima ci dicevi, no, abbiamo cercato di ridurre, no, di togliere tutta quella parte più teatrante, malinconica, anche surreale a volte del sarcasmo di Fanigliulo e appunto concentrarci sui testi delle canzoni, sulla musica, eccetera. Ecco, mi ha fatto pensare anche ovviamente, ma il parallelismo non è poi così strano, se ritorniamo agli anni 70, e ma, tra l'altro anche se pensiamo a una vita che è finita molto presto anche a Rino Gaetano, no? Che ha avuto una traiettoria diversa ma che ha qualcosa di simile, e in fin dei conti proprio nel Sanremo di quella fine degli anni 70 ci sono passati entrambi con due canzoni che hanno segnato la canzone italiana, no? Se pensiamo a Gianna e appunto A me mi piace vivere alla grande, e due cantautori che all'epoca erano anche un po' presi come, beh, insomma, questi in realtà non sono proprio dei cantautori seri, vero? Sì, esatto, sì, perché entrambi erano non allineati, no? non appartenevano a nessun gruppo, diciamo, no? Erano cantanti che non erano considerati cantanti impegnati, ma in realtà lo facevano, semplicemente lo facevano in modo diverso. Io credo che Fanigliulo oltretutto fosse chiaramente un marxista di ispirazione, lo si capisce dai suoi testi, dal suo pragmatismo, dal suo nichilismo alle volte, anche una sorta di fatalismo, ma molto, molto laico, che in realtà è molto politico, perché lui sosteneva e diceva che tutto quello che lui faceva era finzione, non era solo sul palco un attore, ma anche nella vita, no? E quindi diceva, in fondo non dobbiamo prenderci troppo sul serio, e anche la canzone Buffone, la canzone L'Artista, prende in giro un po' quelli che si prendono troppo sul serio, perché la vita in fondo è un gioco, non si sa quanto dura, e lui diceva, mi interessa soltanto stare come nella canzone Indomani, soltanto andare avanti e stare con quelli che come me si sono fermati qui, dice, no? Quindi è come una sorta di richiamo alla semplicità, ma anche alla serietà di quello che è la vita, che è forse un gioco, ma che lui sapeva che fosse così, e quindi ci rideva un po' su, rideva di sé, rideva degli altri, e quindi personaggi del genere è ovvio che fatichino a essere collocati, etichettati, no? Certo. Questo è stato il suo destino, ma anche la sua grandezza, secondo me, per quello che è sempre attuale, perché non è mai stato attuale in realtà. Eh sì, tra l'altro guarda, pensando che lui era di La Spezia, quindi, no, tra la Liguria e la Toscana, terra che ha marinaio, tra l'altro. Scusa? Ex marinaio, tra l'altro. Esattamente, no, e terra diciamo che ha prodotto, no, sempre, soprattutto anche proprio in quell'incrocio, in quella curva lì, no, tra Tirreno e Mar Ligure, ha prodotto insomma poeti, figure anche politiche, artisti a tutto tondo sempre molto particolari. Ecco, sì. Mi viene in mente anche un po' quel prendersi in giro, non voler prendersi sul serio un altro grande artista che è Bobo Rondelli, livornese, e quindi con quella verve livornese che è unica, no? Eccetera, però che anche appunto testi molto intimi, spesso molto profondi, ma poi magari quando soprattutto nel caso di Bobo Rondelli portati sul palco, ecco, ci ride sopra, ride di se stesso, no? Anche questo un po' ritorna in Fanigliulo, no? Effettivamente questo non ci avevo pensato, e conosciamo bene Bobo, insomma l'abbiamo visto dal vivo molte volte, e ho sempre pensato la stessa cosa di Bobo, cioè di questa tendenza, di questa forse timidezza o pudore di far vedere agli altri quanto sono grandi. È una cosa che forse ti direi che appartiene un po' anche a me, forse è per questo che sento questi artisti molto vicini, perché c'è questa sorta di pudore, quasi di vergogna di voler far vedere agli altri il proprio talento, non sappiamo bene perché, e di nasconderlo dietro o l'ironia o la teatralità. Questa è una convinzione che sto maturando in questi giorni sempre di più. Forse questo esempio di Rondelli, di Bobo, mi aiuta a confermarlo in un certo senso. Ascolta, noi ci salutiamo con un brano che è Chirurgo, che ritorna anche un po' su alcune delle cose di cui abbiamo parlato adesso, no? È un po' una specie quasi di manifesto poetico dell'uomo nuovo, una visione che ci racconta molto l'intimo del non artista, però è un testo forse più oscuro, più criptico rispetto agli altri. Beh, è un testo assolutamente incredibile. Io quando l'ho ascoltato questo pezzo sono rimasto molto, molto, molto colpito, perché è molto, come tu dici, criptico, ma allo stesso tempo molto forte, no? È un manifesto politico in un certo senso, nel quale Falegnulo cerca di rappresentare appunto l'uomo nuovo, che secondo lui non è uno solo, ma è un collage di varie umanità, come dice, no? Una sorta di Frankenstein ipotetico, che prende pezzi di qua e di là, e questa figura del chirurgo, probabilmente un chirurgo, non so se un chirurgo plastico, non so come lo si sia immaginato lui nella sua testa, perché comunque è un pezzo davvero oscuro, si immagina questa nuova creatura composta da varie parti. Mi ha fatto pensare anche un po' a, sempre tornando al marxismo, un po' anche a, sai, Nanni Moretti in Caro Diario, quando diceva: mi piace, insomma, vado d'accordo con la gente, ma solo con una parte di tutta la gente. Quindi è come se lui prendesse, ma non vado d'accordo con tutti, adesso non ricordo la citazione esatta, però è questa tendenza a voler immaginare un uomo che è composto da varie sfumature, che non è uno solo, ecco. Certo. Ascolta, domanda che ti devo fare all'inizio, ma te la faccio alla fine. Perché non hai incluso A me mi piace vivere alla grande in questo omaggio? L'ho fatto per rispetto verso Falegnulo, per una scelta che serve a far capire a chi ascolterà questo disco che Falegnulo era molto altro, perché insomma odio in un certo senso i tormentoni, e vorrei che un artista venga considerato nella sua totalità e non soltanto per il pezzo più famoso, che è un pezzo meraviglioso ovviamente, che io ho amato e ho interpretato, ma è come costringere l'ascoltatore ad ascoltare qualcosa di più, perché ancora oggi io credo che un disco abbia un valore, e che quindi giudicare o conoscere un artista significa ascoltare non solo una canzone, ma almeno un disco, e quindi credo che se lo meriti, perché ci sono veramente delle perle assolutamente meravigliose, e non volevo che venissero offuscate. Sai, ti immagini, uno compra il disco e poi ascolta solo quel pezzo, gli altri dice vabbè, questi sono un contorno, invece beh, no, però sono assolutamente. Preparati che nei live la gente te lo chiederà, quindi insomma dal vivo dovrai pur farla quella canzone. Dal vivo magari suono e la gente canta, questo possiamo fare. Ecco. Falegnulo, sì. L'artista, album che esce quest'oggi 24 aprile per Beta Produzioni, nuovo lavoro di Holden, un omaggio a Franco Falegnulo. Vi abbiamo presentato questo disco insieme a Holden, ci andiamo a sentire Chirurgo. Holden, in bocca al lupo e a prestissimo. Crepi, grazie, ciao a tutti. E quando quel muro davanti al mio viso, mi chiedo che cosa farebbe lui. Andrebbe di lato con una scala, od attenderebbe che caschi giù. So bene che lui ha tanta esperienza, gli basta uno sguardo ed è già di là. Lui prende la vita come una palestra, per vincere il muro farò come lui. Che pesci pigliare, lui forse si aspetta una mano da me, ma conosce bene l'uomo che gli sta in faccia, sa ben capire la sua identità. E in mezzo alla gente mi giro stupito, vorrei essere giusto come è giusto lui. Lui prende la vita come un libro di storia, per conoscere l'uomo farò come lui. Io credo nell'uomo, ma un pezzo alla volta, un grande collage di grande qualità, disperse tra tutti e nessuna di uguale, l'uomo nuovo è il chirurgo che li unirà. Io credo nell'uomo, o in ciò che è diviso, chi ha coraggio, chi ha gioia o sensibilità, altruismo, speranza, decisioni e fermezza, l'uomo nuovo è il chirurgo. Io non so difendermi da quello che provo, se amore, se affetto, se infelicità. Tu invece ci giochi come il gatto col topo. Voglio far come te, essere gatto anch'io. Io credo nell'uomo, ma un pezzo alla volta. Un grande collage di grande qualità, disperse tra tutti e nessuna di uguale. L'uomo nuovo è il chirurgo che li unirà. Io credo nell'uomo, in ciò che è diviso, chi ha coraggio, chi ha gioia o sensibilità, altruismo, speranza, decisioni e fermezza. L'uomo nuovo è il chirurgo che li unirà. Io non so difendermi da quello che provo, sia amore, sia affetto, se infelicità. Tu invece ci giochi come il gatto col topo, voglio far come te, essere gatto anch'io. Concerto per l'attacco frontale di Trump che contro il Claudio Amendola rincara la dose. Non mi scuso, pensavo avesse coraggio, ma non sta con i prepotenti. È posto una sua immagine con Gattuso che avrebbe compiuto 100 anni il 21 aprile, mentre la delegazione americana guidata da Vance è in partenza per Casa Pusterlengo nell'Odigiano per crescere e sfidare Kimi Antonelli e Yannick Sinner in bici. La possibile ripresa dei colloqui Iran-Stati Uniti, testata in diversi paesi, fra cui l'Italia, un minuto a settimana. L'ottimismo sull'accordo spinge un gruppo di 4 o 5 giovani di Vicenza, nello stretto di Hormuz, per una giornata al mare fra passeggiate, giochi e tuffi. Il gruppo non chiama le forze volenterosi con Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna, ma incita Pasdaran con fischi e urla. Lo psichiatra Walker Texas Lucarelli, nel branco si perde il senso della giustizia, ma anche un bottino milionario fra orologi, borse, petrolio e gas. Manifestazione dei patrioti europei a Milano provenienti dai conunquili sotterranei che portano alle fogne. Alcuni di loro erano imparentati con la Russia. Salvini contro Bruxelles sulla lotta Champions. Il Milan deve tornare a comprare il gas da Bayern Monaco e Real Madrid. L'attacco frontale del presidente del Senato La Russa. Non dovrebbe parlare di calciatori. Non ha idea di quello che sta succedendo in Coppa Italia. E sono tornate anche le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo Telegrafico, un commento su queste ultimissime. Allora, per quanto riguarda la Coppa Italia, il 13 maggio si giocherà la finale Lazio-Inter all'Olimpico, quindi la Lazio tecnicamente è in casa. Questo nella nostra tempolinea, perché in quella delle ultimissime non lo so, però visto che l'ultima notizia mi ha fornito lo spunto, diciamo che cito questa cosa. Poi abbiamo i patrioti europei, Steven, che escono dai cunicoli che provengono dalle fogne o portano le fogne, adesso non ricordo, e mi sembra una descrizione veramente esatta, non ho altro da aggiungere, volevo proprio soltanto ammirare la squisitezza descrittiva. E poi non lo so se abbiamo problemi di salute mentale, c'è uno psicologo al quale rivolgersi, ovviamente non ci sono i contatti perché era una notizia, però questo Walker Texas Lucarelli secondo me deve essere bravo con qualunque tipo di disagio psicologico che si possa avere, anche se potremmo pensare che abbia dei metodi sbrigativi, non lo so, però sembra molto bravo. Bene, prima abbiamo nominato Flavio Ferri, che ha collaborato ancora una volta in questo nuovo disco di Holden, che ci ha accompagnato nella puntata di questo pomeriggio di Zibaldone. Flavio Ferri fa tante cose, tra l'altro da poco è uscito anche questo brano in cui collabora con Gaetano Nicosia e Stefano Scioni, Appunti per la storia, da un album del collettivo SBAM intitolato Il segreto di Penelope. Il collettivo SBAM è un collettivo, l'acronimo significa Scambi di Bellezza Artistica e Musicale, che è proprio stato ideato 20 anni fa da Flavio Ferri. È un'associazione di Lecco che accoglie e sostiene donne migranti attraverso il lavoro, l'ascolto e la condivisione. Il segreto di Penelope, no? Viene presentato dal collettivo SBAM in questo modo. Da questo incontro sono nate parole e suoni che non vogliono semplicemente raccontare delle storie. Sono canzoni che vorrebbero entrare, con rispetto, in un'esperienza umana che riguarda anche chi ascolta. Accanto alle ferite, ai viaggi, alle separazioni e al desiderio di salvezza, emergono domande, accuse, rivolte a noi stessi, al nostro mondo. Rivolte alle nostre ipocrisie, alla nostra compassione intermittente, alla facilità con cui osserviamo il dolore degli altri senza davvero metterci in discussione. Per questo i brani tengono insieme partecipazione, autocritica, vicinanza e inquietudine. Adesso proprio lo scoprirete nel brano che vi presentiamo, dove il parlato di Gaetano Nicosia e il canto di Flavio Ferri è sostenuto al basso da Stefano Scioni e mettono insieme un profluvio di frasi fatte, slogan, pregiudizi davvero beceri che colpiscono in primis le donne migranti. Quindi un brano, secondo me, molto importante da ascoltare con attenzione. Sentitevelo qui. La miseria portano le malattie. Un richiedente asilo su due è matto da legare. Gli immigrati mi hanno mangiato anche il cane. Brano che aveva bisogno di una presentazione, piccolo errore, il parlato era di Flavio Ferri, invece Gaetano Nicosia era il canto. Banzo, un commento se vuoi telegrafico e poi passiamo subito a bomba all'altro brano che ci porta un po' in un'altra galassia musicale. No, non commenterò perché dici sempre che il tempo è tiranno, quindi passo a presentare il prossimo brano, che è di Bassolino e si intitola Popoli del Mare, è una collaborazione col produttore libanese Sharif Magarbane. Avevamo già sentito un esito della loro collaborazione, il brano Baidali, che l'avevamo ascoltato qualche mese fa, e infatti provengono dallo stesso singolo questi due brani. E perché vi trasmettiamo Bassolino? Beh, innanzitutto perché a noi il Libanone piace, ma anche perché qui Agenda è un po' un servizio al pubblico, di pubblica utilità, vi annunciamo che Bassolino suonerà prestissimo a Barcellona, cioè il 30 aprile alla Nau, che è, diciamo, fra le venue, per dirla come gli anglofoni, fra le venue barcellonesi, sta puntando moltissimo sugli artisti italiani. Ho perso il conto dei concerti di artisti nostri connazionali alla Nau nell'ultima stagione, a partire da settembre, e comunque è anche perché probabilmente con la comunità italiana così numerosa che c'è a Barcellona, di questi concerti hanno una buona risposta. Quindi non perdetevi Bassolino il 30 aprile con il suo diciamo, future funk, new jazz, insomma, queste sonorità, queste coordinate che forse ho descritto anche in maniera troppo sbrigativa, comunque non perdetevelo. Ma soprattutto ascoltatevi il brano così capite che musica fa Bassolino, merita davvero. Popoli del mare. Bello, bello, a me piace molto Bassolino, mi piacciono molto queste sonorità, però adesso facciamo Banzo un bel volo pindarico da Napoli a Vicenza e passiamo proprio a tutt'altro genere, ritrovando un artista che ci ha accompagnato tempo fa qui a Zibaldone, Ellie Demon, con una nuova uscita dello scorso mese di marzo. Napoli-Vicenza, se non ero, è stata anche una finale di Coppa Italia nel 98. Hai ragione. C'è troppa, ai tempi di Otero. In questa puntata. Otero e Luiso. Esatto, vero. Che poi vinse il Toro del Sora, poi vinse il Vicenza. Chiediamo scusa a Ellie Demon per la deviazione. Sì, Ellie Demon è un artista che abbiamo seguito, l'abbiamo intervistata, ci piace molto la sua proposta. E quindi, adesso che ha pubblicato un nuovo 45 giri, Rainbow de Paia, passiamo a farvelo ascoltare, ma solo in parte, perché contiene due brani, e ovviamente non solo perché ve ne facciamo ascoltare uno invece di due, ma perché per ascoltare il secondo, adesso andiamo a ascoltare Monte Orco, per ascoltare l'altro, Latte Bianco, bisogna comprare il 7 pollici, non c'è storia, bisogna fare così perché si può comprare in digitale anche su Bandcamp, ma avrete solo Monte Orco, mentre invece se volete ascoltare anche l'altro brano, bisogna appunto procedere all'acquisto del supporto fisico. E il tema è molto importante, e anche perché poi parte del ricavato di questo 7 pollici andranno alla LAIGA, la Libera Associazione Italiana Ginecologi Non Obiettori, per l'applicazione della legge 194-78, valeva la pena citare il nome intero, perché appunto il tema di questo 7 pollici è l'interruzione di gravidanza, volontaria o meno. È un tema delicatissimo sul quale non, ovviamente non dirò nulla, perché se non facciamo mansplaining, è proprio l'ultimo tema sul quale vogliamo cadere in questa pratica disdicevole. E però appunto bisogna ricordare che il tema non è una scelta casuale, deriva anche da un'esperienza autobiografica, pare, di una persona molto vicina a Ellie DeMond, e appunto questa volontà di approcciare questo tema si traduce anche nella decisione pratica di sopportare la LAIGA. Sì, ricordiamo che Ellie DeMond è un'artista che canta in dialetto vicentino, quindi e unisce, no, garage blues e psichedelia con appunto anche storie, non solo il dialetto della sua terra. Andiamocelo ad ascoltare. Per non dimenticare la musica indiana. Ah, hai ragione. Monte Orco, Ellie DeMond. Cordialmente Trento, Anterem. Mena il siero a muline, non te ne smente, garde mie den altri, duri come giaspri. Chi ha vista navighe, moi nemo in usura tre siamo arrivati anche questo venerdì alla fine di questa puntata di Zibaldone. Ci rimane il momento dell'ultimo trago, che in questo caso, Banzo, è un omaggio, quindi non vi proponiamo qualcosa della canzone italiana cantata, interpretata in altre lingue più o meno lontane. Invece facciamo un omaggio a un amico che tra l'altro è stato anche ospite di Zibaldone, a un intellettuale a tutto tondo, artista, regista, scrittore, poeta, improvvisatore. Parliamo di Davide Riondino, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 29 marzo a 73 anni. E a Davide Riondino Banzo dedicheremo una puntata prossimamente di Zibaldone. Però quest'oggi, così anche per anticiparla, vi mandiamo in onda una delle sue ultimissime creazioni, che ha a che fare con un progetto molto bello che io ho sempre amato molto, che si chiama TG Suite. Banzo, se vuoi dire tu due cose rapidamente per i nostri ascoltatori, poi ce l'ascoltiamo. Beh sì, TG Suite, le TG Suite nascono dal lockdown del 2020, periodo traumatico che però ha avuto anche i suoi frutti, un po' l'immobilità forzata ha dato esiti nelle menti più brillanti, diciamo, è il caso di Davide Riondino, che sostanzialmente con questo progetto cercava di plasmare in musica in modo coerente gli spunti dell'attualità, componendo canzoni che riprendevano quello che era successo nell'immediato. Potrebbe suonare un po' astratto la mia spiegazione, vi chiedo scusa, è tutto un limite mio, però adesso vi facciamo sentire un esempio, poi se ricordate ne abbiamo trasmessi altri esempi nel corso degli anni a Zibaldone, ma Steven, io so sinceramente che tu le ami perché ricordo tutti i tuoi commenti fuori onda, però andiamo con un esempio recentissimo, la penultima, L'Uomo d'Oro, che è uscita l'11 marzo scorso. Chi è l'Uomo d'Oro? È quello che altri definiscono l'Uomo Arancione, cioè Donald Trump. Volendo, questa canzone, se fosse uscita prima, avrebbe potuto fare parte della nostra puntata di canzoni contro Trump, perché insomma non le manda a dire con l'inconfondibile senso dell'umorismo di Riondino. E sì, insomma, Trump è un personaggio che va esorcizzato così, Riondino, la caratteristica dell'ironia, insomma, ce l'avevo, ho appena detto una cosa di un'ovvietà sconcertante. Comunque, solo dirvi una cosa, che non è una cosa particolare solo post 2020 questa di Davide Riondino, perché la ballata del sì e del no su Tangentopoli era in realtà una specie di TG Suite ancora più poetica e satirica. Andiamocelo ad ascoltare questo L'Uomo d'Oro, e un piccolo ricordo per Davide Riondino, ma a lui dedicheremo presto un'altra puntata. Con questa canzone ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.57 diceva tutti i venerdì: nonostante abbiamo parlato veramente troppo di Coppa Italia, siamo riusciti a ricordare a dovere sia Fanigliulo che per il momento Riondino, e non è male visto tutte le intromissioni calcistiche di oggi. Ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti. Viene l'uomo d'oro, dei capelli d'oro, con le mani d'oro, cuore d'oro nero, tutto quel che tocca gli diventa d'oro, scambia col denaro e diventa vero, il denaro è Dio, il profeta sono io, quel che dico io lo comanda è Dio, io sento la voce, dico quel che dice, le potenze sante parlano all'istinto. Ararara. Ah, non sono padrone della mia persona, sono uno strumento, canto come il vento, sono l'uomo d'oro, dei capelli d'oro, con le mani d'oro, il profeta vero, il denaro è Dio, il profeta sono io, quel che dico io lo comanda è Dio, ricomincia il tempo, vivo nel presente, e vi sembra poco, e vi sembra niente. Noiosa la burocrazia di un capitalismo senza fantasia, una malattia, tutto programmato come il bene e il male al supermercato, ma la vita vola, strappa le lenzuola, mischia il bene e il male, angelo maiale, viene l'uomo d'oro, dai capelli d'oro, il denaro è Dio, il profeta sono io. Ah, ah, ah, ah. Ah.